Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Dicevo fra me: affonda, maledetta, affonda! Furono queste le parole con cui riprese a parlare. Voleva farla finita. Era disperatamente solo e formulò nel proprio cervello questa imprecazione all'indirizzo della nave, mentre contemporaneamente aveva il privilegio di assistere, da quanto si può giudicare, a scene farsesche. Si fermarono per un momento, finché il primo motorista si scagliò contro Jim. «Vieni ad aiutare! Forza! Sei matto a sprecare l'unica occasione di salvezza! Vieni ad aiutare! Forza! Forza! Guardate lì! Guardate!» E finalmente, guardando a poppa, Jim vide quello che l'altro indicava con insistenza maniacale. Un silenzioso piovasco nero che occupava già un terzo del cielo. Sapete bene come sorgano i temporali da quelle parti in questo periodo dell'anno. Prima si nota un rabbugliarsi dell'orizzonte, solo questo. Poi si leva una nube densa come un muro. Una colonna di vapore orlata di inquietanti striature bianche sorge da sud-ovest, inghiottendo intere costellazioni di stelle. La sua ombra vola sulle acque e fonde mare e cielo in un unico abisso di oscurità. E tutto è calmo. Non ci sono tuoni, vento, rumori, non c'è un guizzo di lampi. Quindi compare un arco livido nella tenebrosa immensità. Passano una o due onde lunghe che sembrano fluttuazioni dell'oscurità stessa e improvvisamente vento e pioggia colpiscono insieme con una violenza straordinaria, come se avessero appena abbattuto qualcosa di solido che li tratteneva. Quella nube si era addensata senza che loro se ne accorgessero. La scorsero e capirono subito che se in condizioni di perfetta quiete il bastimento aveva qualche remota possibilità di restare a galla ancora per qualche minuto, il minimo turbamento del mare avrebbe voluto dire la fine immediata. La prima oscillazione all'ondata che precede lo scoppio di un simile temporale sarebbe stata anche l'ultima. Sarebbe diventata un tuffo in avanti, si sarebbe prolungata, per così dire, in una lunga distesa a capofitto giù. Giù fino al fondo. Di qui questi altri soprassalti di paura, questi nuovi lazzi con cui mostravano la loro assoluta avversione alla morte. «Era nera, nera», proseguì Jim con cupa ostinazione. «C'era arrivata addosso da dietro, quella cosa infernale. Immagino che in fondo ai miei pensieri ci fosse ancora qualche speranza. Non so, ma adesso era finita. Ammattivo al pensiero di essere così in trappola. Ero arrabbiato, come se mi avessero messo in una gabbia. Ero in trappola. Ricordo anche che era una notte calda, non c'era una bava d'aria». La ricordava così bene che, ansimando nella poltrona, sembrava sudare e soffocare davanti ai miei occhi. Non c'è dubbio che quell'idea lo facesse impazzire. In certo qual modo fu un colpo inatteso, ma gli fece anche venire in mente che si era dimenticato del solo scopo per cui era precipitato sul ponte. Era venuto lì per liberare le scialuppe della nave. Estrasse di scatto il coltello e cominciò a tagliare a destra e a manca, come se non avesse visto nulla, non avesse sentito nulla, non conoscesse nessuno a bordo. Gli altri pensarono che fosse irreparabilmente uscito di senno, ma non osarono opporsi esplicitamente a questa inutile perdita di tempo. Quando ebbe finito, tornò al posto esatto in cui si trovava prima. Il primo motorista era ancora lì, pronto a riafferrarlo e bisbigliarli vicinissimo all'orecchio con voce ringhiosa, quasi avesse voluto mangiarglielo. «Pazzo imbecille! Pensi che avrai uno straccio di possibilità quando quella massa di animali sarà in acqua? Da quelle scialuppe cercheranno di spaccarti la testa!» Si torceva le mani a fianco di Jim, che l'ignorava. Il capitano continuava a rigirarsi rimanendo nello stesso posto e a balbettare: «Martello! Martello! Prendete un martello!» Il motorista piccolo piagnucolava come un bambino, ma finì per essere, come si vede, il meno vile del gruppo, riuscendo anche a raccogliere le forze per scendere alla sala macchine. Ad essere giusti, deve essergli costato non poco. Jim mi disse che diede occhiate disperate, come uno che non può fuggire, lanciò un debole lamento e schizzò via. Issandosi a fatica sulla scala, fu subito di ritorno, in mano il martello, e senza por tempo in mezzo si scagliò contro il chiavistello. Gli altri due abbandonarono subito Jim e gli corsero vicino per aiutarlo. Udì i colpi del martello e il suono del chiavistello aperto che cadeva. La scialuppa era libera. Solo allora si girò a guardare, solo allora. Ma si tenne a distanza, si tenne a distanza. Voleva farmi sapere che si era tenuto a distanza, che non c'era niente in comune fra lui e quegli uomini che avevano il martello. Proprio niente. È più che probabile che si considerasse separato da loro da uno spazio invalicabile, da un ostacolo insuperabile, da un baratro senza fondo. Fra sé e loro mise tutto lo spazio che poté, l'intera larghezza della nave. Spingevano la prua della scialuppa. Spingevano con grande forza nel buio della notte. Spingevano senza più guardarlo. Lo avevano dato per perso, come se fosse stato davvero troppo lontano, troppo irreparabilmente staccato da loro, per meritare un'invocazione, un'occhiata, un segno. Non avevano tempo per riflettere sul suo passivo eroismo, per sentire il rimorso del suo rifiuto. La scialuppa era pesante. Loro spingevano la prua e non avevano fiato per parole di incoraggiamento. Ma il turbine del terrore che aveva disperso il loro autocontrollo come pula al vento trasformò quegli sforzi disperati in scatti adatti, parola mia, più alle buffonerie dei pagliacci nelle farse. Spingevano con le mani, con il capo. Spingevano per salvarsi la vita con tutto il peso del corpo, spingevano con tutta la potenza dell'anima. E non appena riuscivano a liberare dalla gru la poppa della scialuppa, scattavano come un solo uomo, precipitandosi a bordo, in un groviglio selvaggio. Inevitabilmente la barca arretrava di colpo, ricacciandole all'indietro, a urtarsi l'un l'altro. Per un istante restavano interdetti a scambiarsi con voce bassa e tagliente tutti i peggiori insulti che venivano loro in mente e si ributtavano dentro. Tutto ciò si ripete per 3 volte. Jim mi descrisse la scena con cupa pensosità. Non aveva perso un solo movimento di quella comica impresa. Li detestavo, li odiavo. Fui costretto a vedere tutto, disse senza enfasi, volgendo su di me uno sguardo tetro e penetrante. Ci fu mai qualcuno sottoposto a prova più vergognosa? Non ho dimenticato i fatti che riferì, ma a questa distanza di tempo non posso ripeterli con le parole da lui usate. Ricordo solo che riuscì ad esprimere meravigliosamente, insieme con la nuda esposizione degli eventi, l'intenso rancore che provava. Per 2 volte, mi disse, chiuse gli occhi nella certezza che la fine era prossima, e per 2 volte dovette riaprirli. Ogni volta notò l'oscurarsi di quella grande calma. L'ombra della nube silenziosa cadeva sulla nave dello Zenith e sembrava averne cancellato ogni suono di vita pullulante. Non sentiva più le voci sotto i tendoni. Mi disse che ogni volta che chiudeva gli occhi un lampo di intuizione gli mostrava chiara come il giorno quella folla di corpi distesi ad aspettare la morte. E quando li riapriva, scorgeva la lotta confusa di 4 uomini impegnati in una folle battaglia con una barca ostinata. Ad ogni attacco ricadevano all'indietro, si rialzavano imprecando l'uno contro l'altro e all'improvviso ritentavano un altro assalto tutti insieme. C'era da morire da ridere. La stretta finale era giunta, così pensò, e non si mosse. I piedi gli rimasero incollati alle tavole del ponte, mentre i pensieri gli mulinavano confusamente nella testa. Fu proprio allora che vide uno degli uomini intorno alla scialuppa indietreggiare improvvisamente, agitare freneticamente le braccia alzate, barcollare e crollare. Per l'esattezza non cadde, ma scivolò dolcemente a sedere, tutto raggomitolato e con le spalle appoggiate a un fianco del lucernaio della sala macchine. Era quello che azionava le macchine ausiliari, un tipo magro e macilento, dai baffi incolti. Fungeva da terzo motorista, spiegò. Morto, dissi. Ne avevamo sentito parlare in tribunale. Così si è detto, dichiarò con cupa indifferenza. Naturalmente non ne ho mai avuto la certezza. Era debole di cuore, qualche tempo prima si era lamentato di non sentirsi bene. Emozione, sforzo eccessivo. Lo sa il diavolo. Era facile capire che non voleva morire nemmeno lui, buffo, no? Che mi prenda un accidente, se non è vero che quegli altri lo hanno indotto ad ammazzarsi con un raggiro. Con un raggiro, né più né meno, con un raggiro, per Dio, proprio mentre io... Se fosse rimasto tranquillo, se avesse detto loro di andarsene al diavolo quando sono venuti a tirarlo giù dalla cuccetta perché stava affondando la nave, se fosse rimasto lì ad insultarli con le mani in tasca... Thank you. Subito dopo il forte rumore della barca, lasciata letteralmente cadere in acqua, venne il suono sordo dei corpi che si agitavano furiosamente dentro di essa, unito a grida confuse. Sgancia! Sgancia! Spingi! Sgancia! Spingi, se non vuoi morire! Ci arriva addosso il temporale! Udì, alto sopra la testa, il debole mormorio del vento e al di sotto dei piedi un urlo di dolore. Sotto bordo una voce dispersa prese ad imprecare contro un gancio a tornichetto. La nave cominciò a ronzare a prua e a poppa come un alveare infastidito. E con quella stessa tranquillità con cui ormai mi raccontava tutto quello che accadeva, perché proprio in quel momento era molto calmo nell'atteggiamento, in volto e nella voce, e senza che nulla, per dir così, preannunciasse quanto mi diceva, osservò. Gli inciampai nelle gambe. Cadde su un fianco, piano piano, e questa è l'ultima cosa che ricordo di aver visto a bordo. Continuò. Non mi preoccupai di quello che faceva. Sembrava che stesse cercando di tirarsi su. Pensai che stesse cercando di tirarsi su, naturalmente. Mi aspettavo di vederlo passare di corsa e scavalcare la ringhiera per saltare nella scialuppa dietro agli altri. Lì sentivo agitarsi lì sotto e una voce come dal fondo di un pozzo chiamò «George». Quindi tre voci si levarono insieme a urlare. Le percepii separatamente, un belato, uno strillo, un ululato. Rabbrividì lievemente e lo osservai alzarsi con lentezza, come se dall'alto una mano ferma lo stesse tirando su dalla sedia, afferrandolo con i capelli, su lentamente, fino a quando non fu completamente eretto, e quando le ginocchia furono tese, la mano lo lasciò andare ed egli barcollò. Quando disse «urlarono», diede l'idea, con il volto, i movimenti e la voce stessa, di un terribile silenzio, e involontariamente tesi le orecchie a cogliere il fantasma di quell'urlo che avrei percepito immediatamente grazie al falso effetto del silenzio. «C'erano 800 persone su quella nave», disse inchiodandomi allo schienale della sedia con quel suo tremendo sguardo vuoto. 800 persone vive, e loro urlavano all'unico morto di scendere a salvarsi. Salta, George, salta! Oh, salta!» Rimasi lì con la mano sulla gru, ero molto tranquillo. Ormai il buio era fittissimo. Non si poteva vedere né il cielo né il mare. Sentì la scialuppa che sbatteva sotto bordo e per un po' non avvertì alcun suono da giù, ma la nave sotto di me era piena di voci. Improvvisamente il comandante gridò «La tempesta! La tempesta! Tira via!» Al primo scroscio di pioggia e alla prima raffica di vento urlarono «Salta, Giorgio! Ti prendiamo noi! Salta!» La nave cominciò a inclinarsi lentamente in avanti. La pioggia l'investiva come un mare infuriato. Mi volò via il berretto dalla testa. Il respiro si mozzò in gola. Udì come se fossi stato in cima a una torre un altro urlo selvaggio. «George! Salta, George!» La nave andava giù, giù di prua, sotto i miei piedi. Sollevò deliberatamente la mano al viso e agitò le dita come se volesse togliersi dalle ragnatele, guardandosi poi la palma aperta per mezzo secondo prima di esplodere. Ero saltato. Si fermò e distolse lo sguardo, e poi soggiunse. «Evidentemente. Non me ne resi conto fino a quando non guardai in su», si affrettò a spiegare. «È possibile anche questo. Bisognava ascoltarlo come si fa con un fanciullo nei guai. Non se ne rendeva conto, era andata così. Non sarebbe accaduto mai più. Era caduto in parte su qualcuno e aveva urtato il bordo di uno dei sedili. Ebbe l'impressione di essersi rotto tutte le costole del lato sinistro. Quindi rotolò su se stesso e vagamente vide la nave che aveva abbandonato torreggiare su di lui con la luce del fanale di via che rosseggiava, ingrandita dal riflesso della pioggia come un falò sulla costa di una collina attraverso la foschia. Sembrava più alta di una muraglia, incombeva sulla scialuppa come una scogliera a picco sul mare. «Avrei voluto morire!» esclamò. Non c'era modo di tornare indietro, era come se fossi saltato dentro un pozzo, in un buco profondissimo ed eterno. Intrecciò le dita e quindi le riaprì. Nulla poteva essere più vero. Aveva proprio fatto un salto in un buco profondissimo ed eterno. Era precipitato da un'altezza che non sarebbe più riuscito a risalire. La scialuppa aveva ormai superato la prua della nave. Era troppo buio perché i naufraghi potessero vedersi ed erano inoltre accecati e pressoché sommersi dalla pioggia. Mi disse che era come essere investiti da un'ondata all'interno di una caverna. Volsero la schiena alla tempesta. A quanto pare il capitano mise un remo a poppa per tenere la barca con la prua al vento e per 2 o 3 minuti sembrò che fosse arrivata la fine del mondo con il diluvio che si era scatenato nell'impenetrabile oscurità. Il mare rumoreggiava come 20.000 pentole in ebollizione. La similitudine è sua, non mia. Immagino che non ci fosse molto vento dopo la prima raffica ed egli stesso aveva ammesso all'inchiesta che quella notte il mare non si era particolarmente alzato. Si accoccolò a prua e si voltò a lanciare indietro un rapido sguardo. Vide solo il bagliore giallo della luce dell'albero di Maestra, alto e confuso come l'ultima stella che sta per dissolversi. Vedere ancora la nave mi terrorizzò. Disse proprio questo. Ciò che lo terrorizzava era il pensiero che non ci fosse ancora stato il naufragio. Senza dubbio, voleva che quell'abominio si compisse il più presto possibile. Nella barca nessuno fiatava. Nel buio sembrava volare, ma naturalmente non poteva avere molto abbrivio. Quindi il temporale passò davanti a loro e il grande, insopportabile frastuono battente seguì la pioggia che si allontanò e sparì. Poi non sentirono più nulla, tranne uno sciabordio leggero contro i fianchi della scialuppa. Qualcuno batteva violentemente i denti. Una mano lo toccò sulla schiena. Una debole voce disse: «Sei lì?» Un'altra esclamò tremolante: «Se n'è andata!» E tutti si alzarono a guardare a poppa. Non videro luci, solo buio fitto. Sulla faccia sentivano ora una pioggerella fredda e sottile. La barca sbandò leggermente. L'uomo riprese a battere i denti più rapidamente. Si fermò e ricominciò altre due volte, prima di riuscire a padroneggiare il tremito, tanto da dire: «Appena in tempo!» Riconobbe la voce del primo motorista che diceva cupamente: «L'ho vista andar giù! Per caso avevo guardato da quella parte!» Il vento era caduto quasi completamente. Scrutarono nelle tenebre, con la testa mezzo girata dalla parte del vento, come se si aspettassero di sentire delle grida. Dapprima fu contento che la notte avesse impedito ai suoi occhi di vedere quella scena. Subito dopo il sapere che fosse avvenuta, senza avere scorto o udito nulla, gli parve il momento culminante di una terribile catastrofe. «Strano, vero?» mormorò, interrompendo quella sconnessa narrazione. Credo che in quel primo momento avesse il cuore straziato da tutta quella sofferenza e che il suo animo assaporasse l'accumularsi di tutta la paura, di tutto l'orrore, di tutta la disperazione di 800 esseri umani ghermiti nella notte da una morte improvvisa e violenta. Perché mai altrimenti avrebbe detto: «Sentii che dovevo saltare fuori da quella barca maledetta e tornare a nuoto, a vedere mezzo miglio di più, qualunque distanza, proprio fino a quel punto». Perché questo impulso? Capite l'importanza? Perché proprio fino a quel punto? Perché non annegarsi sotto bordo se proprio voleva annegarsi? Perché tornare fino a quel punto per vedere, come se la sua immaginazione dovesse essere consolata dalla certezza che era tutto finito prima che la morte arrivasse anche per lui come un sollievo? Thank you.